Ad alta voce, Pierfrancesco Favino legge La paura di Federico De Roberto, replica del 2014. Nell'orrore della guerra, l'orrore della natura. La desolazione della Val Grebbana, le ferree scaglie del Monte Molon, le cuti delle Due Grise, la forca del Palalto e del Palbasso, i precipizi della Folpola. Un paese fantastico, uno scenario da sabba romantico. La porta dell'inferno. Non una macchia d'albero, non un filo d'erba, tranne che nel fondo delle vallate. Lassù, un caotico cumulo di rupi e di sassi. L'ossatura della terra messa a nudo, scarnificata, dislocata e rotta. Gran parte delle trincee si erano dovute aprire spaccando il vivo masso, a furia di mine. Il monte delle schegge aveva dato il materiale per i muretti e il pietrisco era servito a riempire i sacchi a terra. L'acqua mancava del tutto e doveva essere trasportata a schiena di mulo, nelle ghirbe, insieme con i viveri. Tuttavia i soldati si erano accomodati anche lì e non parevano starci di peggio umore che altrove. Il posto era spaventoso, ma in compenso tranquillo. Ogni idea di altri sbalzi da quelle parti pareva deposta. Poteva soltanto temersi che gli austriaci volessero essi profittare delle loro posizioni più vantaggiose e quindi occorreva stare molto attenti, segnatamente nel tratto avanzato del costone della Venzela, dal cui mantenimento dipendeva la saldezza della linea retrostante. Ma neppure i nemici si mostravano animati da proponimenti bellicosi e a poco si era così venuto formando una specie di tacito accordo in virtù del quale nessuno dei due partiti dava molestia all'altro. Vigilanza incessante, ma non ostilità. Il servizio più penoso toccava alla vedetta posta all'imbocco del canalone che andava a finire nella conca del Corbin, poiché solamente di lì i nemici potevano tentare una sorpresa. Gli ordini portavano che quel passaggio fosse continuamente esplorato dall'alto e precisamente dal punto già designato per la postazione di una mitragliatrice, alla quale si era poi dovuto rinunziare, non essendo riuscito possibile mascherarla. La piazzola, quantunque lontana soltanto una cinquantina di metri dalla trincea, ne pareva remotissima, essendone distaccata del tutto. Un certo tratto della linea d'accesso restava bene o male riparato da due muricciuoli formanti camminamento, ma più oltre, per la natura e la configurazione del terreno, non si era potuto improvvisare nessuna sorta di riparo e l'uomo destinato alla fazione doveva avanzarsi carponi, insinuandosi tra le pieghe del suolo fino a una radice di parapetto formato dalle sporgenze della roccia e rialzato alla meglio con sassi e sacchetti. Lì, durante due ore, in una posizione incomodissima, sotto il sole dei meriggi estivi e al gelo delle notti, la vedetta aveva la consegna di non perdere mai di vista il fondo della forra. Dirimpetto, a mezzo chilometro a volo d'uccello, la linea nemica, che poi si accostava alla nostra verso sinistra, dalla parte della Magnolo, e quasi la radeva, a segno che, se gli uomini di guardia avessero parlato la stessa lingua, avrebbero potuto attaccare discorso. E già qualche parola si veniva scambiando. Laggiù, qualche pagnotta volava dai nostri posti ai posti austriaci e qualche pacchetto di tabacco faceva la strada inversa. Mentre ci stavano dinanzi truppe boeme, fin da allora poco disposte a lasciarsi ammazzare per i begli occhi di casa Asburgo. Ma improvvisamente la tranquillità fu rotta al primo chiarore di un'alba d'agosto. Thank you. Alfani era venuto col suo plotone a dare il cambio sul posto avanzato al plotone del sottotenente Moro. L'ufficiale che smontava aveva ripetuto al collega il consueto «nulla di nuovo». Collocate le sentinelle interne ai noti 5 posti, fatta cambiare la vedetta scoperta sulla piazzuola, assegnato il turno alle 4 squadre, Alfani si era affacciato un momento alla feritoia centrale. Le stelle palpitavano nella metallica lastra del cielo staccante sulla terra nera, accasciata, appianata e come ripiegata sopra se stessa. La forca dei due pali e le piramidi delle grise disegnavano appena il loro orlo corroso dalle tenebre di contro alla massa informe del Monte Molon. Tutti gli altri accidenti dell'aspro paesaggio restavano avvolti nell'oscurità. Non una bava di vento, non un rotolar di sasso, non una luce umana. «Borga», disse l'ufficiale al sergente, «prendi tu un poco il mio posto intanto che vuoi riposare fino a giorno. Che il faga pur, signor tenente, e che staga pur tranquillo». Sonnecchiavano un poco tutti sulla paglia dei ricoveri, sdraiati lungo le due scarpe della trincea e sulle banchine, e anche in piedi con l'arma a fianco, tutti tranne l'ufficiale in fondo alla cavernetta arretrata, nascosta alla vista del nemico, dove aveva sede il comando del reparto. C'era venuto tante volte Alfani, ci tornava ogni 2 giorni da 2 mesi, da che lo avevano trasferito in quel settore dove la guerra stagnava, ma non si era mai sentito tanto nauseato in quella tana oscura e fetida, tanto a disagio su quel saccone che pareva pieno di patate, tanto stanco di quel servizio regolare e monotono più che in guarnigione, tanto logoro da quella vita da castoro fra sasso e guazzo. Il pericolo era lontano, ma 100 e 1000 volte meglio il pericolo, meglio le avanzate sotto il fuoco nemico, meglio gli urti contro i reticolati, meglio le ferite come quelle delle quali portava i segni sulla manica e i premi sul petto, meglio la morte in campo che quell'inerzia snervante, quella sospensione nel vuoto, lo stillicidio di quel tedio, le 1000 punture dei disagi di tutti i giorni e di tutte le ore. Dormire, sì. Egli voleva perdere la coscienza di se stesso. Se fosse stato possibile, ma il sonno, fuorviato, non tornava. Nel gelo di quell'antro la cui bocca cominciava a disegnarsi fra le tenebre, segno che la notte finiva, che un altro di quei giorni eternamente uguali cominciava a spuntare. E le ondate dei ricordi, e la turba dei pensieri, e la ridda delle immagini lo travolgevano nel silenzio che pareva pieno di tanti rumori. Fluire di acque, cori di campane, mormorio di folle lontane, quando ad un tratto, o no, uno sparo, o un inganno del senso, ma sì, ecco, un altro, e altri, ancora, tutti da sinistra, dalla parte della Magnolo. Balzato in piedi, l'ufficiale accorse per l'ultimo braccio del camminamento, dirigendosi all'ultima traversa della trincea. «Dove hanno sparato?» domandò alla vedetta. «Lontan de chi, signor tenente? La de basse, contro l'alter post». Sopravvenne il sergente, col moschetto in mano, seguito dal capoposto. «Hanno gagnato i truppa che la parte», asseriva il caporale. «Qui che smontava una variante sentì», obiettava il sottufficiale. «Hanno gagnato i truppa, signor tenente, che li boemi l'avevano ritta che non avessero sparato». «È possibile», mormorò l'ufficiale. «Ma a stora chi preve incontro i tignoli so cartucci ciechi del cieco Beppu? Chi l'è che poterà accasciare il naso?» «Non si sa mai. Vada un porta ordini a vedere cosa succede». Ma prima che il soldato si avviasse, uno degli uomini del posto di collegamento venne a portare un biglietto scritto con la matita, dove l'ufficiale lesse. «Ore 4:10. Comunico che dalla posizione antistante è stato aperto fuoco di fucileria senza effetto, ma il fatto rivela un risveglio che richiede più attiva sorveglianza. Marini». «Magari», pensava Alfani, avviandosi al posto centrale, lieto che una qualunque novità lo traesse da quella mortificazione intollerabile. Ed era ancora per via quando, come di risposta al pensiero suo intimo, echeggiò sempre dalla stessa parte il sordo crepitio d'una raffica di mitragliatrice, simile al lontano scoppiettare di una motocicletta che serpeggiasse per le giravolte alpestri. Un soldato, venuto fuori dalla buca e affacciatosi con le mani in tasca a uno spiraglio, canticchiò fra i denti: «Spunta l'alba de sette agosto, scomencia il fuoco di fanteria». «Ma non si perde nessun compagno», gli diè sulla voce l'ufficiale. La seconda strofa avrebbe detto, infatti: «Per le vette da conquistare abbiamo perduto tanti compagni, tutti giovani sui 20 anni. La sua vita non torna più». Contento d'aver prevenuto il senso della tristezza espresso da quel canto, Alfani si affacciò alla feritoia che gli serviva da osservatorio, appuntando il cannocchiale sulla linea nemica. Già troppo bene dissimulata, essa non si poteva discernere contro la luce saliente dietro il Monte Molon. «Beh, ragazzi», disse ai suoi uomini, «se hanno voglia di rompersi le corna, li serviremo a dovere, i camerati». Stette ancora in ascolto, ma non udì altro che il silenzio della montagna. «Chiedi vedetta al posto del canalone?» «Vicenzino», rispose il capoposto, storpiando il nome di Visentini, come soleva storpiare tutti gli altri. «Ma mo che se loro lo cambio. Fa venire qui un momento che va sulla piazzuola». «Numero 12. Oi, Galletta!» Mentre i 5 uomini del secondo turno, dal numero 7 all'11, sostituivano i compagni del primo ai posti interni, Caletti, che aveva sentito approssimarsi anch'egli la sua volta, riempiva di bombe a mano il tascapane nella riservetta. «Presente», rispose, udendosi chiamare e accorrendo. Era un ragazzo ancora imberbe, con un viso bianco e roseo che pareva una mela, con occhi chiari pieni di stupore, pochissimo amante dei lavori manuali. Tutte le volte che bisognava adoperare la piccozza e il badile, rispondeva invariabilmente: «Sono malato». Ma Alfani, che conosceva uno per uno tutti i suoi uomini, sapeva di poter fare assegnamento sulla prontezza e il coraggio dell'infingardo quando era il momento di affrontare i nemici. «Caletti, stammi bene attento, perché quei brutti ceffi si sono destati di malumore stamattina». «Non dubito, sottotenente». «Apri bene gli occhi e a posto». Di momento in momento il chiarore del giorno cresceva. Il cielo dell'alba luceva come uno specchio freddo e terso. Solo un fiocco di nuvolaglia, lungo e sottile, strisciava a guisa d'un serpe sul muraglione del Monte Molon e si insinuava fra le due grise. «Prometto un'altra gran bella giornata», osservò il sergente. «Non tanto. Quella bambagia lì non è buon segno». Riportando lo sguardo sul terreno fronteggiante la trincea, Alfani vide il soldato uscire dal camminamento col fucile a bilanciarm e procedere fra le asperità del passo scoperto, curvandosi appena, con la sicurezza che gli veniva dalla lunga pratica e dalla tranquillità dei nemici. «No, no», voleva gridargli, «poiché i nemici saranno destati. Più basso, copriti!» E parve veramente che Caletti avesse udito le parole pensate dal suo tenente, perché dinanzi all'ultimo tratto, il più pericoloso, si fermò un momento, poi si buttò in ginocchio, s'allungò e strisciò su per la breve erta verso la piazzola. Giuntovi vicino, levò un poco il capo, forse non udirsi chiamare dal compagno che veniva a rilevare, ma allora improvvisamente, al sinistro tapum una fucilata, il corpo s'accasciò. «Porci croati!» L'ufficiale non aveva ancora finito di esprimere il suo rancore che un altro colpo l'intronò. «Tapum!» «E due!» disse una voce. «Visentini!» esclamò il sergente. «Come Visentini? Che ti salta? La minga vista, il Visentini è semovil, la misfero al co, gantiranca lui!» Alfani strinse il pugno e affissò lo sguardo torvo sulla linea nemica come cercando il punto dove poter ritorcere i colpi. «Capo posto!» chiamò voltandosi. «Manda chi viene dopo!» «Seconda squadra, numero uno dopo primo turno!» Ma poiché nessuno rispondeva e alcuni esprimevano il loro stupore apprendendo che il servizio della prima squadra era così presto finito, il caporale chiamò per nome. «Marmotta! Ehi, Marmotta! Addosto a sto marmotta!» Mara Motti dormiva, con l'elmo in capo, i ginocchi sul ventre in fondo al ricovero. Dormiva ad un sonno greve, dal quale fu tratto a fatica. Iamo, al modo, tocca a te, duretta. Maldesto, il soldato si stropicciò gli occhi bestemmiando. Corpo, sangue, mi sono da vedere ai 5 ore, mi sono dopo del caletti. Con la punta del dito il caporale segnò in aria una croce. Gallette San Paraviso. Cosa? E Vincenzino, isso pure. E mi chiamo, io. Favreggi ben o vucila e vatta a pigliare l'ova tosta. Non capiva ancora Maramotti. Aveva il fucile carico e la giberna piena come bisognava e ora si provvedeva anche di bombe a mano secondo la prescrizione rammentatagli dal caporale, ma non capiva perché mai toccasse a lui, come mai Visentini e Caletti fossero morti. Avanti, Maramotti, lo spronò l'ufficiale vedendolo procedere un poco traballante come avvinazzato. Tu sei un ragazzo di giudizio, Maramotti. Dinanzi al superiore il soldato si riscosse e sgranò gli occhi sulla faccia bruna, magra, cotta dall'aria e dal sole. Il bianco dei grandi occhi dalle pupille di gaglietto pareva latteo. Come crede, signor tenente? Guarda di non farti beccare anche te. Quante volte ve l'ho detto? Non bisogna esporsi. L'ho da porre in musica? Sì, signor. Oggi i sassi hanno messo gli occhi da quella parte. Stammi ben attento. Che ne va della pelle, ne va. Sì, signor. Buttatosi il fucile a spall'arma con la canna in giù, il soldato si diede uno scossone come per assestarsi la roba addosso, trasse il sottogola dal fondo dell'elmetto dove stava calcato e se lo passò sotto il mento. Poi s'avviò. La voce dell'ufficiale lo fece rivoltare. «E senti un po'!» Dopo una reticenza spiegò. «Porta notizie dei tuoi compagni, che stanotte penseremo a ritirarli. O vivi o morti.» Quantunque gli uomini delle squadre a riposo dovessero attendere alla pulizia delle armi e alla manutenzione della trincea e dei camminamenti, buona parte si affacciarono a spiare dai buchi del parapetto mentre Alfani guardava col cannocchiale in preda a un turbamento che si studiava di nascondere. Cessato il rumore dei passi di Marmotti, non si udiva più nulla. La linea nemica pareva morta. Al primo sole la punta del palalto si accendeva come la bocca di un vulcano. La nuvolaglia torbida stagnava ancora lungo le coste del monte e alla base dei picchi, gonfiandosi e distendendosi pigramente, mentre il cielo settentrionale s'appannava per un gelido soffio. La munizione del comandante non era andata perduta. Egli si rassicurò vedendo il soldato uscire carponi dal camminamento e subito dopo gettarsi ventre a terra, strisciare quindi lento e guardingo a capo basso, poggiandosi sui gomiti e facendovi leva, fermarsi a prender fiato dietro i massi e le gobbie che lo riparavano dalla vista del nemico, per poi riavanzare con la stessa cautela. Giunto dinanzi all'ultimo tratto, il più pericoloso, sostò più a lungo. Poi riprese a spingersi su, poi si fermò ancora e mosse appena il capo a destra e a manca, senza sollevarlo perché aveva dovuto smarrire il senso della direzione. Poi si protese ancora di traverso, guadagnò ancora un palmo di terreno e poi un altro fino a raggiungere i piedi del compagno immobile. Doveva averlo chiamato ed essere rimasto senza risposta perché istintivamente si sollevò un poco a vedere che cosa avesse ed ecco, tapum! Sabaté, inerte, accanto al corpo, inerte. E tre. E quattro, e cinque, e sei! Gridò Alfano, torcendo improvvisamente lo sguardo dai caduti e volgendo intorno a sé. Chi è quel bravo che sa così bene l'aritmetica? Nessuno fiatò. Il tenente era molto amato, ma anche molto temuto. Quando assumeva questo tono non si scherzava. Ma non soltanto la severità del loro comandante faceva muti i soldati. Un senso di inquietudine si diffondeva tra loro alla vista dei compagni colpiti, al pensiero che chi doveva andare sulla piazzola correva lo stesso pericolo. Pier Francesco Favino ha letto La paura di Federico De Roberto. Regia di Diego Marras. A cura di Fabiana Carobolante. Con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.